Certamente, allora proprio partendo da questo scenario che non farà solo da sfondo ma sarà l'assoluto protagonista di questi nostri prossimi appuntamenti, ci siamo fatti ispirare dalla natura, dove qui vive libera in armonia sia con le persone, no? Ci sono coltivazioni biologiche, animali allevati in libertà, è diventata anche fattoria didattica, e quindi insomma la natura ci ha ispirato nel concepire questi eventi, in quanto ogni, diciamo, elemento che contiene vive libero, vive dando i suoi frutti pur nella sua diversità, no? Quindi abbiamo pensato, perché non coltivare anche elementi e offrire eventi che creino insieme cultura, aggregazione, appunto divertimento, e valorizzino anche questo bellissimo territorio. Ho letto di un inizio, ho parlato dell'autunno, che è giovedì 21 settembre, appunto. Esatto, proprio la data. Sì, una data speciale, soprattutto perché apre questo ciclo di eventi con una scrittrice giornalista, che è Alessandra Beltrame, molto conosciuta per il suo primo libro che ha scritto, Io cammino da sola, che ha percorso da sola la via Francigena e l'ha raccontato in questo suo fortunato libro, e da noi verrà a parlare sia di cammino tra la natura, di viandanza, di cammino appunto fatto a passo lento, a passo del respiro, e ci parlerà anche del suo ultimo libro, Il viaggio delle donne. E guarda caso, questa rassegna di eventi siamo praticamente tutte donne come protagoniste, quindi viene anche un po' a collegare come filo rosso, benché ognuna presenti le sue peculiarità. Insomma, sarà sicuramente un ciclo particolare. Esatto, dopo il secondo evento sarà da me curato, in quanto io sono un life coach, mental coach, ma anche trainer di yoga della risata, e quindi abbiamo preso appunto l'ambiente, che dicevamo al protagonista, e quanto influenzi, quanto il corpo influenzi la mente e viceversa, e quanto anche il contesto ci restituisca emozioni. E quindi questo secondo evento, che sarà domenica 1 ottobre mattina dalle ore 9, ci ritroveremo tutti appunto per imparare tecniche di yoga della risata e di gestione dello stress e delle emozioni. Quindi impareremo non a ridere, perché forse tutti sappiamo ridere, ma a trarre benefici dalla nostra risata e dalla nostra respirazione diaframmatica e profonda. Un altro appuntamento mattutino sarà sabato 14 ottobre. Esatto, alle ore 9, anche questo un evento particolare, avremo l'organista bolognese Lisa Teglia, che ci accompagnerà, ci illustrerà l'organo dell'abbazia di Santa Cecilia della Croara, che tra l'altro è stato proclamato patrimonio UNESCO nel 2005, quindi questa è una cosa che magari i bolognesi ancora non conoscono. Elisa è un organista di fama internazionale, fervente concertista, sia in Italia che all'estero, e ci proporrà sicuramente delle melodie che eseguirà lo strumento, facendoci sentire queste particolari sonorità. Quindi abbiamo meditazione, natura, musica e ovviamente non può mancare in un contesto così completo l'arte e la gastronomia. Esatto, poi continuiamo con il sabato 21 ottobre, quarto appuntamento ore 19:30, sarà la volta di Arte in tavola, i mangiatori di fagioli sulle orme di Carracci. E quindi ci sarà questa conferenza tenuta da Loretta Poli, e gusteremo i sapori della nostra terra, e appunto seguirà una cena a buffet in tema con il quadro che verrà illustrato. Prendiamo la conversazione proprio da questa astronomia di cielo stellato sulla terra. Di che si tratta? Sì, esatto, sarà un evento appunto per concludere in bellezza, domenica 29 ottobre dalle ore 9:30 del mattino. Avremo Beatrice Calia, che è l'erbana, esperta di erbe, che ci parlerà appunto erbe terrestri e stelle celesti, farà anche dei collegamenti con l'astronomia, l'astrologia, e ci farà fare una passeggiata esplorativa nel riconoscere le erbe selvatiche edibili presenti appunto in fattoria. E poi le degusteremo tutti assieme in un brunch al quale arriveremo dopo un piccolo laboratorio cuciniero sempre da lei condotto. Diamo qualche indicazione logistica anche? Sì, esatto. Allora, gli eventi si svolgeranno alla Corte della Badessa, che è in via della Croara 7/1 nel comune di San Lazzaro di Savena. Tra l'altro, alla fine di ogni evento, che prima non ho detto, ci sarà, nel caso della presentazione del libro, ci sarà una pericena, poi delle merende e poi appunto ci sarà nelle ultime due una cena buffet e appunto un brunch per concludere. Il programma lo possiamo consultare anche su piattaforme online. Corte della Badessa Farm.it e poi anche i nostri social comunque saranno puntuali nell'illustrare ogni volta i nostri eventi singoli, così ognuno si prepara per la settimana. Certo, io ti ringrazio tantissimo, abbiamo detto tutto, tra l'altro complimenti perché è un panorama originale e quanto mai esteso. Ti auguro una buona giornata e ci diamo appuntamento alla Corte della Badessa. Si parte primo giorno d'autunno, che è giovedì 21 settembre. Sì, alle ore 19, vi aspettiamo numerosi e a braccia aperte. Grazie, ciao. Grazie, ciao.